listening to Rock FM. Chi vuole l'insalata russa? Io, ne vado pazzo. Gliela passi, Melandri? Vuoi anche la mia, Mascetti? Ma certo che la voglio, gliela certo. Passa, lo so, mi fa male, Mi fa male, ma non resisto. Prendi, ti do anche la mia. Grazie, caro, grazie. Me la voglio mangiare proprio tutta. Un po' fredda, però. È vero. Dio, come sto male. Deve essere stato il mare d'aria. Sto male. Oddio, come sto male. Che c'è? Sassaroli. Sto male, non lo so, ma sto male. Ai, ai, ai, ragazzi, Mascetti si sente male. Ha un blocco gastrico, si è rimpinzato di insalata russa. Peggio per lui, è un ingorto. Deve vomitare, questo è tutto. Su, ti prego, vomita. Non voglio vomitare. Eh sì, bravo. Non voglio. Prendi il sacchetto plastico e vomita. Non ci riesco. Vomita, tu devi. No, devi vomitare. No, non liberati voglio. Di quelle insalataccia. No, non mi puoi fare vomitare. È l'unica cosa, rigetta! Guardate con che signorina, signorina Hoffes! Venga, venga, signorina, venga! Ecco! E quel signore? È uno che sta eccolo lì! Eccolo lì. Dove c'è? Eccolo! Tu sta meglio adesso, snella Herre? Sì, grazie, sto molto meglio, grazie. Anzi, sa cosa le dico? Ja? È tornato l'appetito. Quasi, quasi. Me ne fai assaggiare una forchettatina? Sì, anche a me. Sì, prego. Prego. Oh, Guido, ma che schifo. Buona. Forse è meglio di prima. È vero, è migliorata, è più calduccia. Fate sentire anche a me. Buona. Buona, vero? La follia, l'ironia, il genio di Frank Zappa non è mai stato un segreto e anche nella domanda di quest'oggi spicca l'ironia del buon Frank. Vi chiedevamo di ricordare un accadimento televisivo, un'ospitata televisiva di Frank Zappa che alla domanda provocatoria dell'intervistatore Joe Pine rispose per le rime. Forse il conduttore gli chiese che capelli lunghi che ha Frank e Zappa rispose a proposito di lunghezza guardi nelle mie mutande? È un'ottima battuta, ma non è quella giusta. E allora forse, come ipotizzato dalla soluzione B, ironizzando sul fatto che il conduttore avesse una gamba di legno, alla domanda dai capelli lunghi si direbbe che lei è una ragazza, Frank rispose dalla gamba di legno si direbbe che lei è un tavolino? È una gran risposta ed è quella giusta. Evviva! 2 punti per la vostra patente e 100 milioni di punti a Frank Zappa ovunque sia in questo momento. Ricordiamo comunque l'affermazione numero 3, cioè la C, l'ipotesi C, all'affermazione del conduttore che brutta cera che oggi si è per caso drogato tutta la notte. Mr. Frank rispose: chieda un po' a sua moglie cosa ho fatto questa notte. Questa era completamente inventata dalla nostra redazione. Bravi, se avete azzeccato. E comunque, se non avete indovinato, rimanete in contatto. Non perdete la comunicazione con Pane, Burro e Rock and Roll. Much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Course now right along with them, I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. The disco folks all dressed up, like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He hasn't been while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. I'm a dancing fool. Dancing fool. The beat goes on and I'm so low. The beat goes on and I'm so low. The beat goes on and I'm so low. dancing fool. I may be totally wrong, but I'm a dancing fool. Yowza, yowza, yowza. Yowza, yowza, yowza. I got it all together now. Very own disco clothes. Yeah, hey, Brixie. My shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something. Right. That's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool. Per l'appunto, Frank Zappa, che uomo ragazzi. Dancing Fool, 8 e 38 minuti primi, l'ultima tranche di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. La promessa è che ne sentirete delle belle anche in questi ultimi 25 minuti di diretta. Velocissimamente, perché abbiamo un fracasso di cose da fare, segnalo che in molti mi scrivono via SMS: no, cos'è sta storia degli uomini nudi? Mi state diventando troppo gay friendly, perché non ci sono... Ragazzi, cioè, è colpa vostra, non è colpa nostra. Il reparto foto da descrivere è in mano ai radioascoltatori. Se fino a oggi Rosy ci crede un sacco e ci aiuta, gli altri che sono andati in onda erano maschi che si erano fatti il loro calendario, io non ci posso far niente. Lancio di nuovo l'appello, se volete noi siamo qui, 335 100 7777. Come per la rubrica a favore dei genitori, il libero sfogo per i genitori rock che hanno paura che i figli prendano cattive strade, siamo sempre lì anche per quello. Oggi c'è quel povero Cristo della patente 147 che è da lunedì, che si sta ascoltando Radio Z per studiare la concorrenza, e dobbiamo sentirlo per forza. Più avanti abbiamo la rubrica E se avessero registrato così. L'ultima volta vi ricordo un David Bowie che aveva mangiato troppo a colazione, quest'oggi ne scopriremo un altro, abbiamo una testimonianza diretta, un nastro originale, insomma ce n'è di robe da fare. Poi abbiamo la campagna, ma sì, la campagna a favore di ogni santi. Spettri, fantasmi, zombies, zucche intagliate, fastidiosi adulti vestiti in modo sconveniente, improbabili serate in locali notturni. Anche quest'anno, tra poco, le nostre città verranno invase. E tutto per colpa di una festa che affonda le sue radici nella tradizione anglosassone. Halloween. Ma Pane, Burro e Rock and Roll non ci sta. E scatta la campagna a favore di ogni santi. Auguri in anticipo a tutti coloro che un santo vero e proprio non ce l'hanno. Buon onomastico a Eginardo, Ebe, Elifio, Edelberga, Elita, Egle, Elvino, Elimena, Emidio, Ermenegarda, Fazio, Fedora, Festo, Fiore, Fleano, Foca, Frido, Fulberto, Furseo, Fuscolo. Rivalutiamo la festa di ogni santi. Riappropriamoci delle nostre tradizioni. vedo con molto piacere che state facendo vostro il motto lanciato da Pane, Burro e Rock and Roll, ovvero la nicchia vincerà. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti, poi vi faremo sapere se la nicchia vincerà veramente oppure no. Pochi minuti fa abbiamo giocato sporco con le foto osé, invece prendiamo seriamente questa lotta nei confronti di tutte le altre emittenti radiofoniche studiando, imparando dalla concorrenza. C'è un amico che ci aiuta, si chiama Andrea, ha una patente davvero rocker numero 147. Benvenuto a PBR. Ciao Iele, è uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Ti segnalo al volo, perché dobbiamo fare in fretta oggi, sì. Andrea, che iniziano anche i messaggi di solidarietà nei tuoi confronti. Grazie. È da lunedì che Andrea sta studiando Radio Z. Facciamo velocemente il punto: musicalmente non c'entra nulla, fanno musica da ballo, anche il target sembra essere un po' più anzianotto del nostro, fanno gli auguri di anniversario, esatto, compleanni, insomma roba così. Oggi che ci racconti? Ma direi che Francesco Nava, che è il conduttore, ha avuto una caduta di stile un po' pesante, nel senso che in una rubrica che si chiama Parole e Parole, parlavano della parola sicurezza e dell'etimologia. A un certo punto la conduttrice Daniele Inverizzi dice: sapere quello che faremo non provocherà dei danni. Sì. La sicurezza, e lui fa in tutti i sensi, e sempre lui fa: se io e te decidessimo di far l'amore non provocheremmo dei danni, giusto? E lei fa: dipende. E poi risate. Cioè e ci prova in diretta, no, con Daniele Inverizzi, che è la fantastica conduttrice. Hai capito? Beh, io non ci provo con Frick, però. No, questo non lo faccio. No, non lo faccio. Però fa la gaffa, insomma. Ma sì, secondo te se la intendevano? Cioè, c'era già stato qualcosa o no? Ma secondo me lui fa spesso gaff un po' di questo tipo, anche con gli ascoltatori, anche l'altra volta scollature, cose del genere. Okay. Quindi secondo me lui è un po' la sua tipologia. Proseguiamo nello studio, Andrea, dai. Praticamente loro hanno un'altra cosa, chiamano una regione, un ascoltatore di una regione selezionata, sì, e regalano un pacco contenente dei gadget di Radio Z più un mangiafumo, che è un oggetto. Come un mangiafumo? Un mangiafumo, un oggetto, sì, quelle candele che mangiano fumo. Che schifo. Praticamente è uno sponsor, perché uno non lo capisce subito. È uno sponsor perché infatti che dopo lo dicono la pubblicità, lo trovate in tutti i colori. Stai denunciando, Andrea. Tu stai denunciando. Ecologico, e quindi ogni volta, ogni giorno loro regalano sto mangiafumo. Nella scorsa precedente puntata si è pure dimenticato di dirla sta cosa e l'ha detto dopo la canzone. No. È fantastico. Senti, no, allora il mangiafumo un po' non è rock. Noi al massimo potremmo fare qualcosa, però avere un gadget di Pane, Burro e Rock and Roll da fare pubblicità finta sarebbe figo. Quello potrebbe essere un'idea. Sì. Lanciamo un appello a tutti i commercianti, gli imprenditori all'ascolto: se avete un gadget da legare alla trasmissione Pane, Burro e Rock and Roll, noi potremmo fare come Radio Z dei giochi dove lo regaliamo e poi tac, ci facciamo la pubblicità occulta. Molto rock. Non mi sono dimenticato, Andrea, ti ho dato un compito, l'ultima telefonata, di capire la situazione del pullman. Cioè sembra che uno di Radio Z va in giro per le autostrade con, esatto, un pullman sulla sua faccia. Cosa che vi... L'ho beccato, si chiama Marco, ha un pullman gigantesco con questo nome Radio Z e il suo faccione biondo stampigliato sul pullman, sì, ed è uno che sostanzialmente va in giro a fare orchestre con la musica di Radio Z ed è la voce di Radio Z. Caspita, io voglio un pullman, Andrea. Guarda, tra i suoi successi però ti posso dire solo questo, discografici, c'è Amare, Il caldo dell'amore e Io amo te. Quindi sono tutti un po'... Potrei controbatterti con i successi sia della mia formazione che degli Schiantos, ma sono un signore. Andrea, io sono un signore e non lo farò. Però il pullman... Io lancio un secondo appello. Visto che so che ci sono tanti guidatori di pullman, magari c'è anche il capo dei guidatori dei pullman che si fa un esame di coscienza e pensa al garage dove c'è quel pullman fermo ormai da 5 anni da buttare via e regaliamolo all'Ariele, che gli facciamo un piacere con la sua gigantografia. Vado in giro per Milano col pullman sulla mia faccia, che un po' mi piacerebbe. Andrea, ci proveremo. Ci sentiamo settimana prossima con una nuova missione. A presto, ciao a tutti. No, io non voglio né diventare ricco né diventare famoso. Io però voglio un pullman con sulla mia faccia. Me lo merito. Frick, lo facciamo insieme, ci abbracciamo. Sarebbe figo, eh. Restate qui, ne sentirete delle belle. Te lo garantisco. How can I make you? Che grande magia il mezzo radiofonico ci permette di viaggiare con la mente. Non solo con la mente, ma anche col corpo, e di sentire quel che vogliamo sentire, pensare a quel che vogliamo pensare. Possiamo immaginarci tutto quello che vogliamo, un fricantoni bello. Un alien intelligente. Ma certo, tutto, uno spadino intraprendente. Vediamo un po', un Isacco Rizzi ricco, pagato bene e ricco finalmente. E invece a noi interessa in questo specifico momento immaginare la grande storia del rock, lì dove avveniva. Eh sì, dove tutto è cominciato, dove ci sono stati i momenti topici più importanti della nostra musica. Avremmo intitolato la rubrica "E se avessero registrato così", e anche quest'oggi ci permettiamo di immaginare. Ci immaginiamo i Guns N' Roses. Ma quale immaginazione, DJ Harel? Abbiamo le prove! Immaginiamo che Axl Rose si presenta alla sessione di registrazione di Knockin' on Heaven's Door, che ne so, completamente sbronzo. Beh sì, ha appena avuto una brutta notizia e dunque in qualche modo si è rifugiato nella fiaschetta. Caro Freak, cari amici, cari amiche, vi va di immaginare un po'? Trasferiamoci là, laddove Axl Rose combinò tutto questo. Hey Axl, are you ready to record a Knockin' on Heaven's Door? Of course! Are you okay, Axel? Yes! Of course! Did you drink something? Tea! Just a cup of tea! Tea! Only tea? Tea for two! Okay, if you are okay, we can record her Knockin' on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on Heaven's Door! Hey, Axel, you had to wait for the bass. It's rolling. Okay, we can go. 3, 2, 1, go, Axel. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, Axel, I think we got a problem. It's okay. No, it's not okay. You are completely drunk. No, I just drink a cup of tea. It was not only tea. I know, Axel. Mama, take this banjo for me. I can't use it anymore. Yeah, I want to record now. Yes, but you are completely drunk. No, I am Bob Dylan in person. You see? Okay, if you want, we can do another session. Second session for Knockin' on Heaven's Door. Axel, 3, 2, 1, go! Mama takes this job from me. I can't use it anymore. Stop, Axel! Stop it now! You are completely drunk! It was perfect. It was nice. Oh, excuse me. I think I've got a little problem. Oh shit, the microphone. Oh sorry, we can record it tomorrow. Bye bye everybody, bye bye. In the kitchen. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Thank you. times it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Sta a bruciare Bruce Springsteen, I'm on fire, in realtà è il nostro numero di SMS che sta per scoppiare. Tanta solidarietà all'amico Andrea 147, ma soprattutto intravedo dai messaggi tanta solidarietà a favore del pullman di Pane, Burro e Rock and Roll. Oh ragazzi, noi siamo qui, quando volete prestarci un pullman noi ci facciamo anche un giro molto volentieri. Intanto mancano meno di 3 minuti alle 9 precise e scatta la fine del programma, direi. Esatto, questa è la fine. Questa sera mi trovate a Colle Salvetti, allo Charlotte, a selezionare un po' di buon rock and roll. Roberto Fricantoni lo troverete giovedì prossimo a Lucca, all'interno di Lucca Comics, per la presentazione del fumetto a lui dedicato, bimestrale, che si chiamerà per l'appunto Freak. È veramente tutto per oggi, ci si risente lunedì dalle 7 alle 9. Tra qualche minuto potrete riascoltare tutta la puntata 118 su RadioRockFM.com oppure in podcast e ancora su myspace.com/paneburrofm potrete risentire il meglio. Meglio di così, che possiamo fare? Oh! Pane, burro e rock and roll. Tanto successo anche la campagna a favore di ogni santi, eh? Abbiamo ritrovato altri due nomi sbagliati, cioè che un santo ce l'hanno, quindi Isaac Rizzi ci devi altre 20 euro e siamo a 40. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. D'altra parte le promesse sono promesse, caro Garavelli, buona giornata innanzitutto. Buona, sì. Ma ti vedo, ti sento giù. Insomma, vabbè. Allora, mi segnalano che Santa Foca e Santa Ermenegalda esistono, quindi ci deve 20 euro. Ci picchia. Siamo a 40. Da qui a mercoledì, secondo me, un centino ce lo spariamo, Garavelli. Abbiamo i pranzi per un bel mesettino. Sì, ci facciamo una pizzata, esatto, con tutti i Rock FM a spese di Isacco. Isacco. È un'ottima idea. Vi lascio con Marco Garavelli uggioso quest'oggi. Va bene, ci proviamo, dai, arrivare al mezzodì. Vabbè. Ci si risente lunedì. Ciao. Ciao, ciao. A lunedì prossimo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ehi, Rugna, ma che faccia c'hai? Cazzo, frigo, la topolina della gabbia 21 mi ha mollato. Ma no, e perché? Sai, da quando mi usano per la sperimentazione del coso lì, del Viagra, sono sempre arrappato. E allora? Beh, agli inizi sembrava piacesse anche lei, ma poi ha iniziato a dire che non le regalavo mai niente, che pensavo solo a quello, che la usavo e basta. E così mi ha mollato. Oh, Rugna, mi spiace un casino, ma adesso come fai? Beh, come dirtelo? Faccio da solo. Ma che schifo!